alcune nel giardino. Chi è là? Il signor Germont. Son io. Una dama da un coppio, per voi di qua non lunge, mi diede questo scritto. Di Violetta. Perché son io commosso? A raggiunger la forsella m'invita. Io tremo. O ciel, coraggio, Alfredo, al giungervi di questa foglia. Oh! Soffri, o tergi il pianto, ritorna di tuo padre. Orco!